ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soul Time. Anche oggi è mercoledì e sono le 19 e anche oggi è tempo di Soul. Iniziamo con un pezzo Northern Soul, con un grande, grandissimo classico di Luther Ingram. Nelle puntate precedenti ci siamo ascoltati la versione strumentale Exus Track di Luther Ingram. Oggi invece vorrei partire questa puntata con quella che è la parte vocale di Exus Track. Questo pezzo si intitola If It's All The Same To You Babe, e al microfono e al cantato ci ascoltiamo Luther Ingram. If It's All The Same To You Babe. Questo era Luther Ingram. Luther Ingram, oltre ad aver registrato questo grandissimo, grandissimo classico del Northern Soul, è stato anche coautore del brano Respect Yourself, un grande classico della musica soul, un classico del 1971. Respect Yourself, cantato dagli The Staple Singers. Quindi direi di andarcelo ascoltare direttamente, coautore Luther Ingram, gli Staple Singers con Respect Yourself. If you don't give up. Respect Yourself, The Staple Singers, grande classico di casa Stax Records. Allora, con il prossimo pezzo vi voglio proporre una voce canadese. La voce è quella di Shirley Eckard. Shirley Eckard, appunto, è una cantante e scrittrice, autrice canadese, è nata nel 1955, che ha inciso il suo primo pezzo, It Takes Time, quando aveva 15 anni. Nel caso specifico ho trovato questo suo 7 pollici o 45 giri, che dir si voglia, che scusate, che è una cover interessante, su etichetta Capitol, una cover interessante di un grande classico di Fontella Bass. Questa cover è del classico di Fontella Bass, per l'appunto Rescue Me. Rescue Me. Rescue Me in questa cover di Shirley Eichhardt. Sul piatto di sinistra invece è pronto un pezzo dei The Foundation. The Foundation è un gruppo molto molto interessante. È stata appunto una band britannica inglese attiva dal 1967 al 1970. Il gruppo era un gruppo decisamente multietnico, era composto da componenti delle indie occidentali, bianchi britannici e un cingalese. Appunto sono molto molto interessanti perché poi hanno portato in Inghilterra facendo proprio il suono della musica Motown e hanno riscosso anche un discreto successo in Inghilterra, scalando anche abbastanza brevemente le classifiche. Altra cosa molto interessante dei The Foundation, di questo gruppo, è che appunto oltre alla loro composizione multietnica c'era anche una grossa differenza di età tra i vari componenti del gruppo, sempre tutti comunque molto giovani. Il membro più anziano era Mike Elliott, che aveva 38 anni, mentre il più giovane, Tim Harris, che aveva appena 18 anni. Quindi poi c'erano componenti anche delle indie occidentali come il giamaicano Mike Elliott nella sezione fiati e Pat Burke come Pat Burke nello specifico era un sassofonista. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo gran bel pezzo che si intitola Stony Ground. Loro sono i The Foundation. Foundation con Stony Ground. Allora, rimaniamo sempre all'interno del Regno Unito, ci spostiamo nel Galles con la voce di Jane Lecter al secolo Arthur Ford. Jane Lecter veniva appunto dal Galles e nella sua carriera ha composto e inciso un po' di dischi, non tantissimi, dei più disparati generi musicali. È passato dal beat all'R&B, al soul, al freak beat, fino alla psichedelia, per arrivare fino alla musica disco. Quindi ha attraversato quindi diversi generi musicali, si è spinto, nel caso specifico poi della nostra trasmissione, che ha un occhio di riguardo verso il Northern Soul, con questo pezzo che appunto si ispira al Northern Soul classico, che si intitola Sign on the Dotted Line. Poi nel 1978 ha inciso un pezzo abbastanza raro, che è difficile da trovare, dal titolo spettacolare, che si intitola John Travolta, You Are a Superstar. Però stasera ci ascoltiamo questo 45 pollici di Gene Lecter, Sign on the Dotted Line. Prossima traccia invece che ci ascolteremo a breve dopo le mie chiacchiere è degli Isley Brothers. Gli Isley Brothers possono essere considerati un po' gli antesignani degli Jackson 5, anche se in una chiave ovviamente totalmente diversa, in quanto è un gruppo musicale statunitense nato negli anni 50, che ha avuto un grande successo per i lavori nel genere R&B and Soul. Perché gli antesignani degli Jackson 5? Perché nel loro periodo, diciamo, di massimo splendore, possiamo dire, definire questo periodo in questo modo, nella loro formazione più estesa, gli Isley Brothers, il nome non era assolutamente a caso, era costituito da sei fratelli Isley. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo pezzo degli Isley Brothers che si intitola This Old Heart of Mine, tra parentesi, is weak for you. Pezzo del 1972 su dischetto Motown. Isley Brothers. Su Radio Wombat siamo sempre con Soul Time. La prossima traccia è su etichetta Castle, New Jersey. Il gruppo sono gli The Ellingtons e il pezzo si intitola Destined to be a Loser, destinato ad essere un perdente. Ci ascoltiamo questa DJ Copy Not for Sale degli The Ellingtons. Come on. Destined to Be a Loser di Ellingtons. Con il prossimo pezzo invece ci andiamo ad ascoltare una delle mie artiste contemporanee preferite. Lei è Sharon Jones, contemporanea purtroppo non più, perché Sharon Jones è scomparsa nel novembre del 2016. Sharon Jones è nata in Georgia ma è cresciuta a New York. Formatasi nel mondo del gospel, ha lavorato anche come turnista e corista, ma nel 2002 finalmente è riuscita ad entrare nel mondo della musica con la sua formazione Sharon Jones and the Dub Kings, con il primo album che si intitolava Dub Dipping with Sharon Jones and the Dub Kings. È un gruppo che ha riscosso fin da subito, dalle prime note del primo album, subito grande interesse appunto nel mondo della musica soul e funk. Nel corso poi tra l'altro della sua carriera ha collaborato anche, vengono in mente due nomi, Lou Reed, e in un pezzo addirittura con Fatboy Slim. Ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo pezzo di Sharon Jones che si intitola I just dropped in to see what condition my is in. Sharon Jones. Allora, siccome questo pezzo mi garba molto, direi di ascoltarci anche il lato B di questo 7 pollici su etichetta Dapton Records. Ci ascoltiamo la versione etichettata come solo The Dap Kings, in quanto strumentale The Dap Kings. questa era Sharon Jones and the Dub Kings. Quindi direi di passare da uno strumentale all'altro. Il prossimo pezzo, già pronto, in realtà è un gioiellino che ho trovato su etichetta Philips, ebbene sì, Philips, ed è ripreso, è fondamentalmente una cover del grande classico del gruppo musicale rock spagnolo Los Bravos, questo classico assoluto Black is Black. La versione che però ci andiamo ad ascoltare sull'etichetta Philips in realtà è la versione di Paul Mauriat, credo, non parlo il francese, Paul Mauriat and His Orchestra. Questa versione appunto è di Paul Mauriat, che Paul Mauriat è stato un direttore d'orchestra francese, direttore della Grand Orchestre de Paul Mauriat, che era specializzato in easy listening. Cos'è l'easy listening? Easy listening è un format radiofonico, principalmente strumentale, emerso negli anni 50 come evoluzione musicale delle grandi orchestre di musica classica e grandi ed orchestre di musica da camera. Questa versione di Paul Mauriat di Black is Black ce l'ascoltiamo subito. Black, questa volta in una chiave di musica classica. Quindi la prossima traccia e quindi la prossima voce che ci ascolteremo è quella di D.D. Sharp, una cantante nata nel 1945 a Philadelphia, Pennsylvania, negli Stati Uniti, una cantante americana di R&B, e quindi è attiva dal 1961, piccola nota di colore, è l'autrice di una famosa canzone presente nel film Sister Act. Ci ascoltiamo questo pezzo appunto di D.D. Sharp, che si intitola Rock Me in the Cradle of Love. Rock Me in the Cradle of Love. Direi di concludere questa puntata di Soul Time su Radio Wombat, concludendola con, dopo Didi Sharp, con un'ultima voce femminile per oggi. Voci femminili nel caso specifico. Chiudiamo con le The Supremes, con questo gran pezzo che si intitola Floyd Joy.